2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 1° gennaio 2011. Come sempre bisogna abituarsi alla nuova data, soprattutto quando si scrive l'anno viene spontaneo scrivere 2010, da oggi bisogna abituarsi a 2011. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it. Come sempre vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online sul nostro sito internet www.radio24.it. Molti di voi sapranno che il 26 febbraio in Giappone e a marzo nel resto del mondo uscirà sul mercato la nuova Nintendo 3DS, la nuova console portatile per videogiochi con schermo autostereoscopico, cioè in grado di mostrare immagini tridimensionali senza bisogno di indossare occhialini. Bene, la Nintendo ha lanciato un avviso ai genitori perché i bambini sotto i 6 anni non devono usare la console per evitare danni agli occhi. La Nintendo dice che esporre gli occhi a immagini in 3D per un lungo periodo può avere effetti negativi sulla vista. Sul proprio sito internet la Nintendo aggiunge che, secondo gli esperti, tutte le immagini in 3D, quindi non solo quelle della nuova console, possono avere effetti negativi sulla vista dei bambini piccoli. Quindi questo è un avviso importante per tutti i genitori, sia che si parli di 3D classico con gli occhialini, sia che si stia parlando di occhialini passivi o attivi. Del tema abbiamo parlato ampiamente a 2024, sicuramente poi torneremo a parlare, ma se volete potete riascoltare le puntate dedicate alle 3D nel nostro archivio. Chiusa la parentesi, sia parlando sempre di 3D, di sistemi cosiddetti appunto autostereoscopici. Ce ne sono ancora molto pochi, il primo prodotto a livello internazionale mondiale è la nuova console di Nintendo 3DS, che permette, tenendo la console ferma davanti alla fronte, quindi davanti agli occhi ad una certa distanza, di vedere le immagini in tre dimensioni. Ma ancora la possibilità di vedere grandi schermi in 3D senza bisogno di occhialini è a livello sperimentale, esiste qualche prodotto, ma ancora siamo all'anno, se non proprio zero, all'anno 2 o 3. Sono stati ultimati pochi giorni fa a livello europeo i dettagli tecnici per il caricatore unico per i cellulari. Mancava di fatto solo il bollo di due uffici europei, quello per gli standard elettrotecnici e quello per le telecomunicazioni, che hanno completato un lavoro durato più di un anno frutto di un accordo firmato nel giugno 2009 dall'Unione Europea e da 13 tra i 13 maggiori produttori di telefoni cellulari, ad esempio la Apple, Nokia, Motorola, Sony Ericsson, RIM, Research and Motion, che è famosa per il BlackBerry, LG e Samsung. Si tratta del 90% del mercato, tra i quali manca al momento solo la firma di HTC. La nuova normativa tecnica riguarderà solo gli smartphone, quindi i telefoni che scambiano dati con la rete, quindi non i telefonini normali che fanno solo telefonate. Permetterà di armonizzare i caricatori già dai primi mesi del 2011, anche se Bruxelles stima che ci vorranno almeno 2 anni per una diffusione completa. Lo standard scelto è il micro USB, da non confondere con la normale connessione USB e nemmeno con un'altra piccola connessione USB, cioè la mini USB. Quindi esiste la micro USB, ed è lo standard scelto per il caricatore universale, e la mini USB. Oltre ai comprensibili vantaggi, perché deve ricaricare uno o più telefoni anche di marche diverse, quindi si potrà avere un unico caricatore che carica tutte le batterie, oppure ad esempio si potrà facilmente trovare un collega di lavoro, un amico che ha un caricatore e ce lo può prestare. Quante volte è successo che uno vada e dica: avete un caricatore per il telefono tal dei tali? E spesso non si ottiene risposta, tranne forse che per i casi più diffusi. Insomma, ad esempio è molto facile trovare un caricatore Nokia, oppure oggi un Apple, insomma per certi modelli la cosa è più facile, magari per alcune marche un po' più difficile. Con questa novità non dovrebbero più esserci problemi. Dicevo, oltre ai comprensibili vantaggi di questo genere, insomma di comodità, ci saranno anche indubbi benefici per l'ambiente, considerando che gli smartphone venduti nel 2010 nella sola Europa occidentale sono, per la società, secondo i calcoli della società Gartner, oltre 80 milioni. Lo scorso anno erano 45 milioni, quindi già questo ci dà una indicazione molto chiara di quanto sta crescendo questo mercato, un mercato con crescite molto importanti, tanto che, secondo molti esperti, gli smartphone, quindi i telefoni evoluti in grado di scambiare dati, in grado di accogliere un sistema operativo e quindi anche tutta una serie di applicazioni, saranno la maggior parte, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Ancora oggi, nonostante una fascia della popolazione sia oramai passata a queste nuove tecnologie, la maggior parte dei telefonini venduti sono normali telefonini che ricevono e fanno telefonate, tutt'al più possono fare qualche cosa su internet, ma i veri e propri smartphone sono ancora, tra virgolette, 80 milioni in un mercato che sicuramente vale qualche centinaio di milioni di telefonini venduti in tutto il mondo. Ricordo che il totale dei telefoni venduti in un anno, adesso aspettiamo di sapere il dato definitivo per il 2010, comunque stiamo parlando di circa 1.300.000.000 di telefonini, considerando tutta la massa in tutto il mondo, sia di telefonini tradizionali normali sia di smartphone. Parliamo di Facebook, che si è confermato nel 2010 il sito internet in più forte crescita negli Stati Uniti e si è confermato come il sito più visitato, pensate, battendo Google, mentre, se guardiamo la classifica globale, Facebook ha superato Yahoo ed è diventato il terzo sito web più frequentato dietro a Google e Microsoft. Questo secondo Comscore, che calcola in 647 milioni i visitatori di Facebook a novembre, questo è un dato relativo a novembre, mentre Yahoo è a quota 630 milioni di visitatori unici. Google è di gran lunga in testa con una penetrazione mondiale del 73,8%, quindi quasi il 74% di tutti i navigatori della rete finisce prima o poi su Google. Sono 970 milioni di visitatori, quindi tra poco siamo arrivati al miliardo, davanti ai siti della Microsoft presi nel complesso, che raggiungono il 66% della popolazione internet naturalmente, e siamo arrivati a 869 milioni di utenti unici. Secondo Alexa, che è un sito internet, una società del gruppo Amazon, sul quale è possibile vedere una classifica aggiornata costantemente dei siti internet più visitati nel mondo, questa è la classifica: Google è al numero 1, google.com, facebook.com è al numero 2 mondiale, terza classificata, in terza posizione c'è youtube.com, Yahoo è quarto e live.com, che è un sito che fa riferimento a Microsoft, è in quinta posizione. Questa settimana probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori avranno ascoltato anche all'interno del nostro giornale radio la notizia di una causa, potremmo definirla l'ennesima causa intentata o, ancora meglio, tentata nei confronti della Apple, in questo caso per violazione della privacy. L'accusa che un gruppo di consumatori che si sono rivolti al tribunale di San Jose in California fanno alla Apple è quello di non aver vigilato a sufficienza su una serie di applicazioni che ruberebbero una serie di dati sensibili senza il consenso degli utenti. Vedremo poi se questa causa riuscirà a proseguire nei tribunali americani, ma la cosa interessante è capire che cosa in realtà possono fare le applicazioni che oramai molti consumatori che hanno uno smartphone si sono abituati ad utilizzare. Saluto Marco Pifferi, che è un programmatore, l'abbiamo già conosciuto, e ha realizzato una delle applicazioni più note, famose, scaricate in tutto il mondo, che si chiama Around Me. Pifferi, bentornato a 2024. Salve. Diciamo due cose su Around Me per rinfrescare la memoria di alcuni ascoltatori, anche se probabilmente molti la utilizzeranno. Si tratta di un'applicazione gratuita che permette di fare delle ricerche su tantissime categorie, dal bar vicino a casa alla pompa di servizio alla palestra, eccetera, eccetera, e trovarla rapidamente tramite i dati cartografici messi a disposizione da Google. Quanti sono finora i download fatti in tutto il mondo? Alla fine di novembre erano circa 20 milioni di download. In quanti anni? Dal settembre del 2008, quindi poco più di 2 anni. Insomma, quindi sicuramente un risultato che non esistono molte applicazioni nel mondo che hanno fatto così tanti download. Ma è un risultato abbastanza buono, ci sono applicazioni che hanno fatto ancora di più ovviamente, però è un risultato decisamente discreto, ecco. Questa è un'applicazione che gira su che tipo di telefoni? Sia su telefoni iOS, quindi iPhone oppure iPod Touch, che su telefoni Android, quindi per tutti i telefoni che supportano quel sistema operativo. Per capire che cosa fanno le applicazioni, partiamo proprio da questa applicazione. Che tipo di, diciamo, prima di tutto, che tipo di dati danno a me che sono l'utente? Che tipo di informazioni, io ho detto qualche cosa, ma in generale che tipo di informazioni mi danno? Poi vorrei capire, tu che sei il creatore, la tua società che ha realizzato questo software, che tipo di dati riesci a raccogliere, se è possibile farlo, dall'utente? Ma partiamo prima, insomma, lato utente, che tipo di informazioni mi date? Allora, l'applicazione utilizza i dati del GPS per capire dove ci si trova, quindi riesce a capire la posizione sulla Terra dove ci si sta trovando in quel preciso istante. Attraverso questi dati fa una ricerca su Google per vedere quali sono le attività relative alla ricerca che voglio fare, per esempio i bar più vicini oppure i ristoranti più vicini, e mi visualizza un elenco di questo tipo di attività. Queste, diciamo, sono le informazioni che vengono mostrate all'utente. Voi potete sapere dove mi trovo io con il mio telefono? Allora, l'applicazione sa dove ci si trova, ma l'applicazione non ha nessun modo di sapere chi è l'utente che la sta utilizzando. L'infrastruttura, sia quella di iOS che quella di Android, non permette di raccogliere dati personali dell'utente che sta utilizzando il telefono. E se io, su vostra richiesta, diciamo così, se l'applicazione mi domandasse chi sei, vuoi permettere all'applicazione di mandare i tuoi dati a Marco Pifferi? Questo potrebbe esistere? No, anche in quel caso non c'è proprio nessun modo per cui l'applicazione può leggere questi dati. Cioè, prima di tutto bisognerebbe distinguere quali sono questi dati che si vogliono inviare, perché chiaramente la posizione dove ci si trova è possibile eventualmente inviarla, perché è un dato che viene utilizzato per fare questo tipo di ricerca. Però non è possibile leggere dati personali, quali il numero di telefono, il nome, l'indirizzo di mail, eccetera. Questi dati sono assolutamente inaccessibili alle applicazioni, proprio nel sistema operativo, cioè è una parte, diciamo, sicura del sistema operativo che non permette di raccogliere e leggere questo tipo di informazioni personali. Quindi dovrei io inserirli nell'applicazione, che ne so, ad esempio se uso Facebook, io inserisco una serie di cose, potrei dire domani vado a votare per il tal partito e in quel caso sono io che lo scrivo, certo, Direttamente nell'applicazione. Per quanto riguarda un'applicazione come Facebook, l'utente fa anche un collegamento ai dati di Facebook, quindi in quel momento lì quel tipo di applicazione particolare sa dove l'utente Pinco Pallino, quello collegato a Facebook in quel momento, si trova. Ma questo è un caso particolare, nel senso che l'applicazione è collegata all'account di Facebook in questo caso. Le applicazioni normali, la maggior parte delle applicazioni, non hanno un collegamento con i dati anagrafici di un certo utente. Certo, in questo caso però esisterebbe la possibilità per chi gestisce la banca dati, ad esempio di Facebook, di conoscere tutta una serie di cose che noi digitiamo, scriviamo. Diciamo che in più rispetto alle informazioni che l'utente scrive in un browser quando utilizza Facebook, utilizzandole attraverso un telefono è possibile per Facebook localizzare in maniera precisa dove l'utente si trova in quell'istante. Ma detto questo, bisogna dire che comunque anche attraverso una connessione fatta con un browser normale è possibile identificare in una posizione abbastanza precisa dove si trova l'utente, con un errore magari di qualche chilometro, però con una certa precisione. Certo, mi sembra di capire però che forzando forse alcuni sistemi anche di protezione, certi dati si possono raccogliere, o è proprio impossibile anche tecnicamente? Ma tecnicamente non è una cosa, diciamo, semplice. Si tratta comunque di una cosa complessa. Ovviamente è possibile, come è possibile farlo da altre parti, come è possibile farlo attraverso l'applicazione di Facebook sul web, che potrebbe, attraverso un trucco di questo genere, leggere comunque i dati del computer dove ci si è collegati. C'è da precisare che nel caso di Apple, se Apple si accorge che un'applicazione cerca di fare cose di questo genere, l'applicazione viene immediatamente rimossa dallo store. Fa parte delle condizioni per essere presenti sullo store. Sì. E comunque, nonostante questo, non si tratta di una cosa molto semplice da fare, si tratta comunque di una cosa abbastanza complessa da realizzare. Diciamo anche che in generale siamo in un'epoca dove la raccolta dei dati serve alle società per erogare servizi che noi utilizziamo e che a molti consumatori piacciono, e quindi siamo sempre su un equilibrio difficile da gestire. La comunicazione di questi dati è importante per usare dati a cui oramai molti sono abituati e faticano a far senza. Esatto, in realtà mi pare che il punto in questo caso sia più sul fatto che questi dati siano o meno anonimi. Non si tratta tanto, non credo che il problema sia legato alla raccolta di dati ai fini statistici, quanto il fatto della raccolta di dati personali delle persone che utilizzano questi cellulari. Tornando all'applicazione che tu hai realizzato e che continui ad aggiornare, Around Me, approfitto per chiederti alcuni particolari e anche alcuni aggiornamenti. Quali sono i paesi dove il mercato delle applicazioni e della tua applicazione, insomma, è più interessante, giusto per capire anche lo stato di evoluzione dell'uso di queste apps? Allora, il paese numero uno restano gli Stati Uniti. Però in quest'anno abbiamo visto che dopo l'Europa, che è un altro paese molto importante, la somma di tutti i paesi europei, abbiamo visto che il paese che ha avuto lo sviluppo più grande, soprattutto per l'iPhone, è il Giappone. Il Giappone, per quanto riguarda la nostra applicazione, ha avuto veramente uno sviluppo enorme nel 2010. Una domanda a bruciapelo, diciamo così. Android o iPhone o iOS, che è il sistema operativo dell'iPhone? Allora, per quanto riguarda la diffusione dei telefoni, sicuramente Android è quello che ha la quantità maggiore di telefoni disponibili, diciamo, sul mercato. Per quanto riguarda il mercato delle applicazioni, l'iPhone è ancora quello più importante al momento, perché ha un tipo di piattaforma unica, un unico store che permette a tutti gli utenti di scaricare le stesse applicazioni in qualsiasi parte del mondo si trovino, mentre invece per Android molti paesi o molti operatori hanno fatto un loro store che è diverso dallo store di Google, e quindi non è così facile per gli sviluppatori essere presenti ovunque e per gli utenti trovare tutte le applicazioni. Quindi, nonostante la quantità di telefoni Android disponibili sul mercato sia nettamente cresciuta nel 2010, in realtà l'utilizzo delle applicazioni non è così grande come quello degli utenti iPhone al momento. Bene, io ringrazio Marco Pifferi per essere stato con noi. Approfitto anche per augurare un buon 2011. Grazie, a presto. Grazie. Questa è la nostra prima puntata del 2011. Io sono particolarmente allergico a fare la lista delle invenzioni dell'anno, le invenzioni del decennio, fare bilanci, ma l'occasione è buona per invece guardare al prossimo anno. Ci sono report di analisti che fanno anche in questo caso liste lunghissime delle tecnologie che si affermeranno nel corso del prossimo anno. Beh, è sempre difficile fare delle previsioni, soprattutto quando le previsioni riguardano grandi stravolgimenti e in particolar modo la tecnologia che cambia velocemente, che ci mostra oggetti sorprendenti a ritmi molto frenetici. Però sicuramente alcune cose possono essere dette. Oggi vogliamo parlare di computer, iniziando da una provocazione dicendovi che il computer per molti esperti è già morto o comunque lo sarà nei prossimi mesi. Saluto Edmondo Orlotti, che si occupa per Nvidia di High Performance Computing. Bentornato a 2024. Grazie, buonasera, buonasera agli ascoltatori. Parliamo subito, giusto per spiegare il perché tu oggi sei con noi. Tu ti occupi da un parecchio tempo di computer e di informatica, negli ultimi tempi di quella novità, potremmo chiamarla così, che sta esplodendo negli ultimi anni, che si chiama High Performance Computing, cioè grandi centri di calcolo che fanno per noi molte cose che noi non vediamo ma che utilizziamo magari perché ci colleghiamo a internet. Esatto, ci occupiamo di quel settore, di quelle macchine che sono nascoste e che ci consentono, quando abbiamo bisogno di un'informazione o di un calcolo, che questo venga eseguito in un tempo molto rapido da qualche parte nel mondo. Quindi di fatto potremmo dire che tu ti occupi anche di cloud computing. Il cloud computing è una nuova frontiera che passa anche attraverso l'HPC, l'high performance computing, ed è un termine sicuramente molto abusato, ma con il quale dobbiamo per forza avere a che fare sia come professionisti sia come utenti finali, anche perché quando diciamo che il computer è morto, come hai detto all'inizio e come è stato detto diverse volte già ormai nei 30 anni quasi di vita del PC, in questo dire che il computer è morto, in realtà più che il computer in sé, che comunque si vende ancora abbastanza bene visto che se ne vendono 400 milioni di pezzi all'anno, più che dire che il computer è morto è come utilizziamo il computer, che è un modello di utilizzo che è destinato a morire. Però proprio su questa frase, cioè che il computer è morto o morirà a breve, visto che mi ha sorpreso quando tu me l'hai detto per la prima volta qualche tempo fa, mi ha risorpreso di nuovo quando me l'hai detto di recente, è per questo che poi ho detto, beh, ora parliamone e raccontiamo anche che cosa sta cambiando. Che cosa intendiamo dire? Anche in termini di numeri di computer, considerando poi il computer ancora quell'oggetto che sia portatile, notebook o netbook, o sia fisso, cioè desktop, anche in termini di numeri probabilmente se ne venderanno sempre meno e verrà sostituito da altre macchine che favoriscono questo diverso utilizzo della tecnologia e sostanzialmente poi di internet, perché molto si sta spostando verso internet. Assolutamente, se pensiamo al computer come il dispositivo su cui noi carichiamo le nostre applicazioni, carichiamo i nostri dati e lavoriamo su questa macchina, questo computer già di per sé da diversi anni, con l'arrivo di internet che di fatto ha collegato praticamente ogni computer verso una rete, questo modello di utilizzo è destinato a sparire. Quindi io sempre meno avrò un computer davanti a me che contiene i dati su cui sto lavorando e che contiene le applicazioni su cui sto lavorando. Questo cosa significa? Significa che ho di fronte un terminale più o meno intelligente, più o meno smart, e questo terminale si collega verso dei sistemi che stanno da qualche parte, non sappiamo dove, ma che grazie alle connessioni molto veloci può essere in qualsiasi parte del mondo e servirci i dati e le applicazioni che noi vogliamo utilizzare senza più essere legati a uno specifico terminale. Questo significa ad esempio che io posso andare in ufficio, collegarmi al terminale che ho in ufficio, chiamiamolo computer, notebook, netbook, quello che sia, oppure posso collegarmi da uno smartphone o anche da un tablet e accedere agli stessi dati e alle stesse applicazioni. Questo è il concetto di base del cloud computing. Questo è quello che in un modo o nell'altro siamo costretti per necessità propria, oltre che per bisogno tecnologico indotto, è il modello che si sta affermando, e il 2011 dovrebbe essere l'anno della consacrazione finale. Quindi voi dite, o comunque tu dici, molti esperti dicono, il computer è morto davvero quest'anno. Il computer quest'anno possiamo dire che è morto davvero, poi magari risusciterà sotto altre forme, se ne continueranno comunque a vendere ancora centinaia di milioni. Quello che voi dite, quello che molti esperti dicono, è un po' quello che sta cercando di dire, per il momento solo a parole, nei fatti ancora non molto, Google con il computer portatile che sta cercando di progettare, che probabilmente quest'anno vedremo. Sì, Google sicuramente è pioniera in questo campo e ha dettato parte di quelli che sono i comportamenti di massa di oggi quando utilizziamo applicazioni e dati in remoto. Questo è un dato di fatto. Dobbiamo tenere presente però anche che Google ha sicuramente approfittato da un lato di un'infrastruttura server di dimensioni gigantesche, dall'altro lato ha sfruttato la connettività e la potenza di dispositivi più o meno portatili, sempre più a basso costo. Quindi sono state la potenza di calcolo che è nascosta nelle server room, la connettività pervasiva e diffusa e l'evoluzione tecnologica dei vecchi PC, dei vecchi computer, che sotto varie forme si sono poi declinati a diventare degli oggetti personali, tanto che non li chiamiamo più PC, perché non sono più il PC originario inventato negli anni 80, ma li chiamiamo smartphone oppure addirittura tablet, sì. O mini device. Sì. Vabbè, vari termini. Siamo in difficoltà perché cerchiamo di tradurre in italiano cose che avrebbero mille declinazioni in inglese. Senti, in questo scenario, se non abbiamo internet, siamo spacciati? Perché nello scenario classico del mio computer io posso fare praticamente tutto, no, però molte cose nel mio ufficio, anche se non ho una connessione a internet. Il dato di fatto, diciamo, ci sono molte risposte possibili, più o meno diplomatiche, ma la pura e semplice verità poca diplomazia, esatto. Senza una connettività veloce a internet si è tagliati fuori, questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto e tra l'altro è importante sottolinearlo, perché quando si dice che l'Italia, ma non solo l'Italia, anche altri paesi, ma noi guardiamo al nostro paese, ha bisogno di un'infrastruttura per collegare ad internet non una parte della popolazione, ma tutta la popolazione, anche quella nella provincia più remota. Stiamo parlando di adattare il sistema paese ad un'evoluzione tecnologica che stiamo appunto raccontando, per cui se non abbiamo internet siamo spacciati, cioè proprio non possiamo utilizzare gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione. Questo è un dato molto importante sia per le nostre case, ma anche a maggior ragione per le aziende, perché tutto quello di cui stiamo parlando coinvolge forse a maggior ragione anche il mondo del business. Assolutamente, assolutamente. Le aziende hanno un enorme bisogno di connettività sia al proprio interno, perché le aziende prima di andare su cloud che stanno su internet, le aziende costruiscono dei, chiamiamoli comunque cloud, all'interno delle proprie aziende, per cui i dipendenti, anziché collegarsi al proprio computer e avere i dati sul computer che sta sulla propria scrivania, si collegano al server che sta in azienda. Quindi hanno bisogno di una buona infrastruttura di rete all'interno dell'azienda. Successivamente l'azienda vuole portare all'esterno anche questa delocalizzazione. Cosa significa? Significa che se io ho un progettista che sta in un altro paese, in un'altra filiale, voglio che questo progettista possa accedere ai dati che stanno sul server dell'azienda. E per fare questo l'azienda deve essere collegata con una connessione geografica veloce. Senti, questo scenario che stiamo descrivendo significa anche che adesso li chiamo computer, poi anche da questo punto di vista bisognerebbe ridefinire alcuni termini, però gli smartphone, i tablet, eccetera, eccetera, sono meno potenti? Perché se la potenza viene demandata, cioè se il calcolo viene demandato a questi grandi centri elettronici, una volta si usava questo termine. Diciamo che sono meno potenti dal punto di vista tradizionale, cioè io non ho bisogno di avere grosse potenze di calcolo all'interno del terminale, proprio perché io ho trasferito all'esterno, ho trasferito in remoto le mie necessità computazionali più spinte. Rimane il fatto che questi terminali devono essere sufficientemente smart, quindi sufficientemente potenti, da poter gestire sia il flusso dei dati che le informazioni che poi vanno elaborate in locale. Seguiteci nel pomeriggio di Radio 24, andiamo in onda tra le 16 e le 17. Il nostro programma è disponibile anche online sul nostro sito internet attraverso il servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono sul nostro sito web www.radio24.it nelle pagine dedicate al podcast. Se non vi ritrovate perché magari non siete abituati a utilizzare i servizi podcast, potete anche inviarci una email. Il nostro indirizzo è molto semplice, 2024 scritto in cifra, quindi 2024 e radio24.it. Il podcast è molto semplice ed è anche molto comodo, perché vi permette settimana dopo settimana di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione, poi di riascoltarlo come preferite, quando preferite, anche a pezzetti. Ci sono ascoltatori che si fanno 10 minuti al giorno di trasmissione, quindi in una settimana si fanno fuori il programma. Prima abbiamo parlato di una causa che è stata intentata nei confronti dell'Apple. Secondo chi ha proposto questa causa, chi si è rivolto al tribunale di San Jose in California, l'Apple non avrebbe sufficientemente vigilato su una serie di applicazioni che ruberebbero i dati ai consumatori, appunto, senza che questi se ne accorgano. È successo anche nel mondo di Android. Google si è accorta di una serie di applicazioni che rubavano, quindi illegalmente, i dati, alcuni dati che venivano trovati sui cellulari. E quindi esistono a volte produttori di applicazioni che nascondono dei sistemi per rubare dati, perché uno dei grandi business di questi ultimi 10 anni che abbiamo passato, ma sicuramente dei prossimi 10 anni, è la raccolta e la gestione dei dati. Del resto, Google ci ha costruito un impero, è il più grande, la più grande azienda internet al mondo, che sostanzialmente gestisce dati, spesso in forma anonima aggregata, ma anche quando noi diciamo sì, ok, utilizza i miei dati, anche in forma un po' meno anonima, dipende un po' dai casi e dalle situazioni. Sicuramente la gestione dei dati, il business dei dati, è il grande business del secolo, e in alcuni casi questo fa anche la differenza tra aziende ed aziende. A parità di dati disponibili, la gestione, la comprensione dei dati fa la differenza tra un'azienda vincente e una che invece arriva per seconda. Stiamo parlando di una evoluzione che vedremo nei prossimi anni, l'abbiamo chiamata la morte del PC per essere un po' provocatori. Stiamo parlando con Edmondo Orlotti, che all'interno di Nvidia si occupa di high performance computing. Visto che oggi sei qui con noi, voi che vi occupate anche di grafica o prevalentemente di grafica? Diciamo che non è più così. Non è più così. Ci occupiamo di grafica, ma applichiamo la grafica anche per tecniche di calcolo. Vabbè, diciamo che comunque siete piuttosto competenti in grafica. Allora volevo farti una domanda su questo, a proposito di potenza. Una volta, se tu dovevi vedere un video, fare qualche cosa sul tuo computer, che insomma un videogioco, c'era una lunga lista, ma ancora oggi in molti casi, diceva: se non hai una macchina così così così non puoi farci nulla. In questo nuovo scenario, come cambiano le cose? Cioè, vale ancora questa regola? Cioè, se ho un tablet di un certo tipo, magari alcune cose non le riesco a fare? Ma allora, bisogna cambiare completamente l'approccio. A volte, diciamo, abbiamo 30 anni di utilizzo alle spalle del computer vecchia maniera, per cui siamo abituati a pensare che le caratteristiche tecniche del mio dispositivo condizionino il mio utilizzo. Non è così. Io posso avere un tablet relativamente poco potente, e grazie a un sistema di connessione con server che stanno da qualche parte, io posso remotizzare l'applicazione. Questo significa che l'applicazione non sta più girando sul mio dispositivo personale, l'applicazione sta girando sul server e io vedo sul mio terminale solo il risultato. Quando si parla anche di internet più veloce, di aumento della banda che arriva nelle case o nelle aziende, si pensa solitamente che sia semplicemente la banda necessaria per trasferire i dati, per navigare più velocemente, scaricare file e via dicendo. Sì. In realtà l'aumento della banda, della connessione di rete a cui ogni terminale si collega, è fondamentale per cambiare il modo in cui si utilizzano i terminali. La differenza grande sta non nell'avere 10 o 20 megabit, la differenza grande sta nell'avere 100 megabit, perché con quei 100 megabit io posso utilizzare le mie applicazioni in remoto. Questo significa che internet assume una dimensione completamente nuova. Certo, diciamo, le utilizzo come fossero residenti vicino a me. Esatto, si utilizza la risorsa come se fosse presente sul terminale. Quindi quello che tu dici è un concetto molto bello, affascinante per chi si occupa di queste cose. Io do in outsourcing la potenza di calcolo. non solo la potenza di calcolo, io do in outsourcing la potenza di calcolo, le mie applicazioni, quindi compresa la manutenzione, e posso anche dare in outsourcing i miei dati. Sì. Quindi non devo più occuparmi di avere in casa sistemi di backup complessi, soluzioni di protezione, via dicendo, perché c'è qualcuno che lo fa per mio conto. Ora è chiaro che questo modello non si può applicare a tutti. Ci sono aziende che non cederanno mai i propri dati all'esterno perché hanno dati troppo sensibili, quindi se li manterranno in azienda. Quindi questo modello non si applica a tutti. Però anche queste aziende che terranno i propri dati in azienda, sì, quando vorranno accedere ai propri dati e alle proprie applicazioni, magari da 10.000 km di distanza, useranno le stesse tecniche. Senti, sul mondo nuovo dei tablet e degli smartphone, visto che c'è chi dice che tra poco noi opereremo e faremo molte delle cose a cui siamo abituati oggi solo attraverso o smartphone o tablet, qual è la vostra visione? Ma la nostra visione è che appunto si va verso questo mondo in cui abbiamo grosse infrastrutture di server da un lato e terminali più o meno intelligenti dall'altro. Questo è un destino diciamo che è facile prevedere per chiunque in questo settore. Dal nostro punto di vista noi abbiamo già differenziato le nostre linee di prodotto proprio per rispondere a questo tipo di esigenze. Il 2011 sarà l'anno in cui vedremo tablet venduti a decine di milioni. Un dato recente pubblicato da DigiTimes parlava di una prenotazione da parte di Apple di 65 milioni di display per gli iPad da impiegare nel 2011. Se un solo produttore, secondo DigiTimes, ordina 65 milioni di display e sappiamo che ci sono altri produttori che stanno arrivando sul mercato e diamo qualche decina di milioni di vendite a ciascuno di questi, vediamo che rispetto ai 400 milioni di PC che si vendono all'anno, con i tablet ci stiamo avvicinando già molto a questo numero, anche se sono dispositivi diversi e sono dispositivi che nella maggior parte dei casi andranno in aggiunta. Quindi voi non pensate che ci sia un effetto di sostituzione? Forse per i netbook non pensate che questi 400 milioni di computer diventino 300 milioni perché gli altri 100 milioni sono tablet? Diciamo che il travaso non sarà diretto, assolutamente, anche perché non dobbiamo mai dimenticarci che tutta questa trasformazione è legata alle applicazioni. Un esempio molto interessante è legato al fatto che una volta si costruivano prima i PC e poi si disegnava il software che ci andava sopra. Pensiamo per esempio al PC x86, è stato costruito il DOS per girare sull'x86. Oggi invece ci troviamo in una situazione in cui è il software che determina quello che deve essere l'infrastruttura hardware che ci sta sotto. Quindi traducendo, il software ha vinto, l'hardware ha perso. Diciamo che è una guerra che non può avere un vincitore, perché l'uno senza l'altro non funziona, certo. Nonostante entrambi vorrebbero funzionare senza l'altro. Però è una guerra che non può avere un vincitore. Però è sicuramente l'aspetto applicativo che è diventato preponderante rispetto a quello che è, diciamo, la macchina che io ho sotto, il ferro che ci sta sotto, che in molti casi è nascosto. Se ci pensiamo, buona parte degli utenti degli smartphone o dei tablet non sa cosa c'è dentro il proprio dispositivo, mentre invece solitamente gli utenti dei PC sono molto più informati. Sì, certo, noi siamo abituati a utenti di PC che andavano a comprare una cosa con la lista delle specifiche, molto, invece oggi non è vero, non si compra più nulla, ma nemmeno i tablet. No, assolutamente, e soprattutto si vuole comprare un dispositivo che consenta di lavorare bene con quello che ci si vuole fare. Sì, fare delle cose. Quindi l'usabilità è diventata il primo punto. Bene, io ringrazio Edmondo Orlotti per essere stato con noi. Questo sarà sicuramente un anno migliore per l'informatica. Assolutamente sì, è un anno di trasformazioni. Ai prossimi 5 anni probabilmente ne vedremo ancora di più di quelle che abbiamo visto negli ultimi 10 anni. Grazie, buon lavoro e buon anno. Grazie altrettanto. Abbiamo parlato di tablet, tra le altre cose. Sicuramente il 2011 sarà, come abbiamo appena detto, come dicono molti esperti, un anno in cui il mercato dei tablet esploderà. Nel 2010 la spinta è arrivata dall'arrivo dell'iPad, quest'anno dall'arrivo di tanti altri produttori. Sicuramente il Consumer Electronics Show, che si apre la prossima settimana a Las Vegas, e noi ci collegheremo con i nostri inviati a Las Vegas per parlare di questa che oramai è diventata la più importante fiera al mondo per l'elettronica di consumo, non a caso si chiama Consumer Electronics Show. In questa fiera sicuramente si vedranno altri prodotti, altri tablet. Una delle domande che spesso molti ascoltatori ci fanno riguarda un altro prodotto che per alcuni usi viene messo a confronto con il tablet, cioè l'ebook reader, il lettore di libri digitali. Basta un tablet per leggere i libri digitali o ci vuole il lettore apposito, cioè l'ebook reader? Una domanda che abbiamo fatto ad Antonio Tombolini, che è il fondatore di Simplicissimus Book Farm e sicuramente uno dei più autorevoli esperti di ebook in Italia. Direi di no, naturalmente poi sul piano delle preferenze soggettive nessuno può discutere, però generalizzando un po' il tema riguarda quanti libri leggo. Se sono un forte lettore vuol dire che leggo in molteplici situazioni e che leggo molti libri, a quel punto l'acquisto dell'ebook reader non è da porre in alternativa all'acquisto di un tablet, ad esempio, ma è da porre in alternativa all'acquisto dei libri di carta. Quando sono in viaggio ho il mio tablet con cui faccio moltissime altre cose, ma ho anche il mio ebook reader col quale sostituisco i 4, 5, 6 libri che di solito tenevo nella borsa. E quindi questo è un po'... Mi piace dire che, perché spesso poi si obietta anche, ma come invece di ridurre gli oggetti che ci dobbiamo portare dietro, certo. E poi sì, finisce sì, che questi aumentano. Questo è vero, ma per quello che riguarda gli ebook reader, in realtà l'ebook reader sostituisce non altri oggetti elettronici, ma sostituisce i libri di carta. Sì. E quindi ho qualche libro in meno in valigia, direi che va vista così. Sì, alcuni chiedevano qualche tempo fa quante canzoni ci stanno sull'iPod o sul lettore, insomma in generale di musica MP3. Uno dovrebbe rispondere, dipende, però giusto per avere un'idea, su un ebook reader quanti libri ci possono stare? 10, 100, 1000, 10.000? Con le memorie interne standard più o meno tra i vari modelli ci possono stare tra i 1500 e 2000 libri. Dopodiché il fattore chiave è che tutti i modelli sono dotati di espansioni di memoria, per cui con una schedina da 2, 4, 8 giga posso portarmi dietro anche effettivamente 10.000 libri, insomma. Diciamo, quindi possono bastare. È un non problema. Senti, quanto costano questi strumenti? Qui c'è stata, si è già avviato, credo, un fattore significativo, quel processo che caratterizza i prodotti che sul mercato trovano un loro spazio, cioè quel processo di progressivo abbassamento dei prezzi, e oggi è possibile trovare dei lettori ebook che vanno da un prezzo base allo stato attuale di 179 euro, fino a quelli più sofisticati che possono arrivare attorno ai 299 euro. Vorrei ricordare che non più di un anno fa il range andava dal minimo dei 299 euro fino a punte di 600-700 euro. Quindi evidentemente già nell'arco di un solo anno si è innescato quel meccanismo di diffusione e anche di competizione tra produttori. Beh, comunque, diciamo, sempre per mettere sullo stesso piano tablet e ebook, beh, qua siamo su prezzi decisamente inferiori. Assolutamente, assolutamente. Questo è sicuramente un fattore che avvantaggia gli ebook reader, ma poi del resto, come dicevi tu, insomma, dipende anche quello che uno deve fare. Certo. A questo punto uno potrebbe domandare, ma io ho il lettore, mi serve la cosa da leggere, quindi i libri dove si comprano? Questa è la cosa più interessante, ed è stato il problema fino, verrebbe da dire, a poche settimane o pochi mesi fa, nel senso che fino a pochi mesi fa in Italia era letteralmente impossibile acquistare legalmente degli ebook, intesi stavolta appunto come contenuto, come libri elettronici da leggere. La situazione si è sbloccata, se vogliamo, anche in maniera piuttosto rapida e decisa, un po' da parte di tutti gli editori. Gli stessi editori che fino a un anno fa erano alle prese col tema degli ebook in termini, direi, sostanzialmente difensivi, quando non ostili, perché vedevano in questo una minaccia, hanno nel frattempo, direi tutti, maturato la consapevolezza che questa è comunque una frontiera con cui debbono fare i conti. Nei casi migliori, credo esistono editori che la stanno vivendo correttamente anche come una opportunità ulteriore di ingresso su un mercato diverso. In concreto questo significa che in questo ultimo trimestre del 2010 gli italiani avranno per la prima volta la possibilità di acquistare ebook da tutti i principali editori, grandi e piccoli, novità e titoli di catalogo, in quantità titoli disponibili ancora molto limitata rispetto al panorama complessivo dei titoli disponibili su carta, perché parliamo all'incirca di 6-7 mila titoli tra i quali fare i propri acquisti, ma la cosa importante è che tra questi 6-7 mila titoli ci sono tutte le novità e gli editori hanno deciso il passo chiave che consiste nel pubblicare da qui in poi tutte le novità, tutti i titoli contemporaneamente, sia in versione cartacea che in versione digitale. Oggi ringraziamo Paolo Corleoni in regia, che si occuperà anche del podcast. La versione podcast di 2024 sarà disponibile al termine del nostro programma. E come sempre vi consigliamo naturalmente di fare scorta anche di questa puntata, tenerla nel proprio archivio personale, sul proprio computer, sul proprio tablet, oppure sul, cosa ancora più semplice, sul proprio lettore di file MP3. Andate sul nostro sito internet, trovate tutte le informazioni, trovate anche la disponibilità dei file www.radio24.it ed entrate nelle pagine di 2024. Questa è l'ultima parte del nostro programma, io sono Enrico Pagliarini, naturalmente da tutta la nostra redazione i migliori auguri per un buon 2011, stiamo parlando di ebook perché questo sarà un anno interessante, se non altro perché molti editori hanno capito che quella è la strada verso la quale andare, una strada ancora complessa dove non ci si capisce molto perché ad esempio alcuni editori tengono prezzi assolutamente inadeguati al mezzo digitale e in questo modo favoriranno sicuramente la pirateria, ma questo lo dicono tutti gli esperti, molti editori purtroppo faranno gli errori che hanno fatto le major discografiche per il mondo della musica. Anche di questo magari parliamo tra poco con Antonio Tombolini, fondatore di Simplicissimus Book Farm. Parliamo di standard. Quando parliamo di musica, sempre per mantenere lo stesso esempio, oramai siamo abituati all'MP3, che è uno standard. Poi ce ne sono anche altri, ma questo è sicuramente il più famoso. Nel mondo del CD si parlava, si parla ancora, perché insomma sulla qualità il CD rimane ancora il punto di riferimento, del WAV, ma comunque insomma se diciamo MP3 capiscono tutti. Per gli ebook reader, per i libri digitali, di che cosa parliamo? No, c'è stato un punto di svolta che ha favorito anche questa decisione da parte degli editori, che erano oggettivamente alle prese con un problema molto difficile. In assenza di uno standard è difficile affrontare un investimento di conversione digitale dei propri titoli senza sapere poi se il formato avrà durata oppure no. Quello che è accaduto è che da un anno e mezzo a questa parte tutti i maggiori player del mercato, produttori di hardware, di software, editori e content provider, hanno puntato allo sviluppo di uno standard che si chiama EPUB, scritto EPUB, ed è lo standard di riferimento ormai adottato su scala globale per quello che riguarda il mercato dei libri elettronici. Quindi oggi un editore può investire sul proprio patrimonio di titoli su un formato standard, sapendo che quindi è un formato duraturo. Certo, che è riconosciuto da, immagino, tutti i libri, i lettori. Sostanzialmente tutti i device, con qualche eccezione, sì. E con un problema successivo, perché poi è bello parlare di standard, il discorso viene un po' vanificato quando su un formato standard come EPUB si decide di metterci sopra, per così dire, dei meccanismi di protezione, di limitazione all'uso, che sono i cosiddetti DRM. Sì. E quindi un formato EPUB su cui però sopra ci sono dei meccanismi di protezione come questi, come i DRM, che invece non sono standard, di nuovo ricomplica un po' la situazione. Sì, sì, sì, perché noi diciamo che se prendiamo spunto dal mondo tradizionale dei libri, i libri escono dall'editore con grosso modo uno standard, perché insomma la stampa su carta, uno standard ha 4 secoli di vita, ecco, più o meno. Esatto. E poi arrivano dai distributori, dai distributori vanno nelle librerie. Al di là insomma della catena, qua ci sono degli elementi, come tu dicevi, di vincolo maggiore. Pensiamo anche solo a certi rivenditori molto verticalizzati come Amazon, che pubblicano con un loro formato, i libri si leggono solo con il Kindle, che è il lettore di libri digitali di Amazon, e se io compro, anzi non posso nemmeno comprare da un altro rivenditore, giusto, in quel caso? Ma in realtà anche qui le cose si stanno modificando un po'. Da un lato Amazon ha fatto la scelta di rendere disponibili dei software di lettura del loro formato proprietario Kindle su altri device. Quindi oggi chi ha iPhone o iPad può scaricare l'applicazione Kindle e leggere i suoi libri comprati su Kindle anche su iPhone e iPad. La stessa cosa può farla sui tablet Android e così via. Questo dal lato del formato proprietario. Dall'altro lato, l'ultima versione del Kindle supporta la lettura di un formato sempre di proprietà Amazon, ma libero, quindi disponibile per tutti, che si chiama Mobi Pocket. Noi, ad esempio, con la nostra piattaforma di distribuzione forniamo agli editori anche il servizio di conversione automatica del file EPUB standard in formato Mobi Pocket, così che possano vendere anche il loro libro senza passare per Amazon, ma a tutti i possessori di Kindle. Quindi nel nostro store già oggi è possibile acquistare il libro in formato EPUB per tutti i lettori, per tutti i tablet, o in formato Mobi compatibile per Kindle, per chi possiede certo Kindle. Certo che da un certo punto di vista la situazione è un po' complicata. Mi sembra un po' di rivivere i primi tempi, anche se le cose non sono cambiate come forse i consumatori vorrebbero, però i primi tempi della musica, cioè io magari ho un lettore, posso comprare in quel negozio, non posso comprare dall'altro negozio, posso comprare un tot numero di canzoni, ma poi se le passo su un altro lettore non le posso, cioè è un mondo che deve ancora cambiare. Per spezzare un po' questo caos, quanto costa un libro elettronico? Cioè, mi conviene comprarlo digitale piuttosto che di carta? Ma adesso stiamo vedendo quello che stanno facendo gli editori, che naturalmente anche per loro si tratta di sperimentare, di vedere che cosa può succedere a vari livelli di prezzo, eccetera. Però devo dire che in linea di massima vedo che anche gli editori più grandi o i titoli più noti e più famosi su cui si tende a mantenere i prezzi più alti comunque hanno un differenziale minimo attorno al 30-35% rispetto al prezzo del libro di carta. C'è da tenere conto, e questo va detto perché è un dato di fatto reale, che sugli ebook, sui libri digitali, c'è una aliquota IVA del 20%, mentre sui libri di carta l'IVA è al 4%, quindi una parte della possibile riduzione in realtà poi viene vanificata dall'effetto di questo impatto della aliquota IVA maggiore. E questo sicuramente è una stupidaggine, cioè l'IVA dovrebbe essere almeno uguale. Dovrebbe essere intuibile, poi qualcuno teme di parlarne troppo perché magari a qualcuno viene in mente di portare il 20% anche i libri di carta, quindi bisognerebbe... Certo, per motivi ambientali uno potrebbe anche pensare a questo. Va detto anche però questo spesso, perché poi si rischia di prendere derive demagogiche che non sono neanche giuste. Il problema è di scala europea, cioè il discorso dell'IVA dipende da una direttiva europea, quindi quando si sente ogni tanto dire come al solito l'Italia eccetera eccetera, per carità abbiamo un'infinità di problemi. Questo no, nel senso che il problema ce l'abbiamo, ma non dipende da una decisione dello Stato italiano, ma è appunto una normativa di scala europea. Prima ho fatto più di un riferimento al mondo della musica, che forse abbiamo cominciato un po' a capire come funziona la musica digitale. Non è che in questo mondo le cose andranno a finire come nel caso della musica? Tu prima accennavi anche al fatto che si trovano molti titoli gratuiti in modo illegale. Non c'è questo rischio, mettendo tutto in rete e digitalizzando tutto? Ma io ho una mia lettura di quello che è accaduto nella musica, che adotto anche per tentare di decifrare quello che potrebbe accadere nel mondo dell'editoria. La mia lettura di quello che è accaduto sommariamente nel mondo della musica è che mentre le major discografiche, quindi diciamo gli editori musicali, a fronte del fenomeno della cosiddetta pirateria, avevano deciso e decisero di investire pesantemente le loro risorse e i loro soldi nel tentativo di in qualche modo soffocare la disponibilità di file in rete sui canali illegali, c'è stato un altro signore che non era un editore e che con la musica non aveva niente a che fare, che si chiama Stevie Jobs, che a un certo punto ha considerato, io credo, la pirateria un dato di fatto e ha preferito dedicare risorse e innovazione a immaginare degli strumenti per un mercato legale. Ha dimostrato che uno spazio per il mercato legale esiste comunque. Quello che tenderei a dire è che oggi gli editori dei libri hanno l'opportunità di non fare lo stesso errore, e cioè di non perdere neanche troppo tempo e troppe risorse a immaginare di soffocare un'area di illegalità che comunque è un dato di fatto, e hanno però l'opportunità forse di fare in modo che il mercato legale dell'editoria li veda in qualche misura protagonisti e non semplicemente poi attori passivi alla fine di decisioni che vengono prese da altri. E anzi, prendendo sempre spunto dalla musica, immagino che gli editori capiranno che ben presto tutti questi vincoli di DRM, questi blocchi, sono inutili e forse non sono un aiuto al consumatore. Esatto, anche qui con un'avvertenza, che lavorando un po' in questo ambiente, parlando con gli editori eccetera, c'è anche da dire che probabilmente la consapevolezza su questo degli editori è già piuttosto avanzata, molto meno avanzata è ancora, ahimè, tra autori e soprattutto tra i loro agenti. Spesso sono gli agenti letterari e gli autori a pretendere dagli editori l'apposizione di questi meccanismi, di questi DRM, dei quali a volte gli editori farebbero anche volentieri a meno. Questo vale soprattutto per gli autori di maggior peso, quelli più importanti, e quindi naturalmente questo condiziona anche le scelte degli editori. Questo vuol dire che difficilmente io posso comprare un libro elettronico e dire guarda, te lo passo, cioè nel senso te lo trasferisco sul tuo lettore. Questo non si può fare spesso. No, allora, questo non si può fare in linea di diritto, non si può fare comunque, nel senso che io acquisto con un libro elettronico, non trattandosi di oggetti fisici di cui acquisisco la proprietà e che, di cui posso trasferire la proprietà con l'oggetto stesso, acquisisco comunque una licenza d'uso. Ho capito. Di quel contenuto, e la licenza d'uso può avere delle limitazioni legali. Il problema dei DRM è che per evitare, per mettere un meccanismo che impedisca di fatto questa cosa, poi in realtà inseriscono tante difficoltà agli utenti in perfetta buona fede che rischiano di scoraggiare l'acquisto. E così abbiamo concluso questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Oggi aggiungiamo anche gli auguri per un buon 2011. Ci troverete anche la prossima settimana, sempre al sabato nel pomeriggio di Radio 24, oppure su internet www.radio24.it nelle pagine di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.